Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Se non ricordo male, la Terra gira intorno al Sole a 30 km orari. È una bella botta, Questo c'entra con la domanda, non guardatemi così, Alberto e Chiara. Mi chiamate. No, c'entra. I titoli e poi la domanda degli ascoltatori. Perché i pianeti sono sferici? Domanda di carattere astronomico. Ci arriva ad Alessandra da Torino per la rubrica Domande impossibili. Basta con i falsi miti dello sport pulito. Legalizziamo il doping. Una proposta che nasce da due articoli apparsi sul Corriere della Sera. Proviamo a capire gli aspetti culturali e scientifici di questa apparente follia. Lo strano caso dei vitelli con la lingua blu, del garzone e dei norcini e dell'acquario del signor Armando. Giallo veterinario con colpevoli involontari e antidoti creativi. Allora, la domanda ce l'abbiamo già in audio? Sì, domanda di carattere astronomico questa settimana, poi magari se c'è tempo, siccome ne sono arrivate un po', magari riusciamo a farne qualcun'altra. Ricordiamo però, dove ce le devono mandare. Bravissimo, mandatecele via mail moebius@radio24.it. Oppure via Facebook Moebius Scienza. E poi c'è Twitter moebius_online. Tra l'altro seguiteci su Twitter perché veramente stiamo raggiungendo dei livelli enormi. Abbiamo 31.000 seguaci, guarda, veramente onorata. Ma sentiamo la domanda di Alessandra da Torino. Buonasera, vorrei sapere perché i pianeti sono sferici? Domanda semplicissima, lineare come al solito. Chi abbiamo? Abbiamo Diego Turrini, che è un planetologo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Buonasera Diego Turrini. Buonasera Turini. Già nostro ospite. Un'altra volta. Avevamo parlato di sassi marziani. No, dicevo quella cosa della velocità della Terra intorno al Sole, perché un sacco di gente dice, girando, no, c'è tutto l'attrito e la sfera diventa la forma più... E invece no, la cosa impressionante è che... Si modellano girando, tu dici. Sì, invece, una specie di fresa naturale. Ma il vuoto è tale per cui addirittura nemmeno l'atmosfera se ne va, che è fatta d'aria, no? Esattamente. Allora, tutto è dovuto alla presenza della forza di gravità. Ah, quindi non c'entra nessun attrito, infatti. No, l'attrito non c'entra, anzi in realtà c'è un effetto che contribuisce alla forma di un pianeta, che è la sua rotazione intorno al suo asse, che è l'effetto che produce le giornate sulla Terra, ma tende ad allontanare un oggetto dalla forma sferica. Ecco, infatti bene. La Terra non è perfettamente sferica per via della rotazione, che tende ad allargarla ai poli rispetto all'equatore. Un po' schiacciata. No. Esattamente. Un po' una patata, dicono, no? Una ciambella senza buco. Invece la forma sferica di base viene data alla gravità, per via di due effetti. La prima è che la gravità di tutti i corpi si esercita come se fosse tutta la massa fosse compressa in un unico punto, che è il baricentro di quel corpo. Se un corpo è di forma regolare, come una sfera o un cubo, il baricentro coincide con il centro geometrico del corpo. Se è di forma irregolare, il baricentro può anche essere spostato. L'altro effetto è il fatto che la gravità agisce solamente in funzione della distanza tra due punti, non della loro posizione assoluta. Quindi, dato un corpo, ad esempio un corpo roccioso come un grosso asteroide, la sua gravità si eserciterà dal suo baricentro e tenderà a portare alla stessa distanza tutti i punti della superficie di questo corpo e anche man mano tutti quelli dell'interno. Portandoli tutti alla stessa distanza, la forma che tende ad assumere, dato che non c'è una direzione preferita, è quella di una sfera. Perché concentra esatto, la massa. Solo che questo effetto non avviene per tutti i corpi, avviene solo se il corpo supera una certa dimensione, perché la gravità tende a deformare il materiale, portarlo tutto man mano alle stesse distanze e quindi a creare questa forma sferica. Ma il materiale di cui è composto oppone una resistenza che è data dalla sua durezza. Variabile, sì. Esatto. Quindi ci vuole una certa massa per riuscire a raccogliere. Ci vuole una certa massa, esattamente. Dipende da come è fatto il materiale del corpo, ma una dimensione grosso modo indicativa di quando un oggetto riesce a essere abbastanza forte da assume la forma sferica in 1000 chilometri. Infatti l'asteroide più grosso della fascia degli asteroidi, Cerere, ha circa un diametro di 1000 chilometri, ha una forma abbastanza sferica da quello che possiamo vedere. Sì, gli altri sono tutti bitorzoluti, strani. Quelli più piccoli hanno delle forme molto più irregolari, esattamente. Perché hanno meno gravità che agisce. Esatto, e e quindi la resistenza del materiale è più forte della gravità e la gravità non riesce a cambiare la forma e portarla sferica. A proposito di massa e di composizione, di come sono composti appunto i singoli pianeti. Abbiamo una seconda domanda di Mario dalla provincia di Lodi che ci chiede di parlare di un pianeta un po' particolare che è il nostro. E dice, molto preciso, dice: il calore del nucleo terrestre è mantenuto vivo e fornito dal decadimento degli elementi radioattivi che ci sono all'interno. Ma considerando i tempi di dimezzamento di questo decadimento, si può immaginare che il nucleo stia cominciando a raffreddarsi oppure no? Allora sì, c'è in realtà un altro attore in questo gioco del riscaldamento della Terra e del suo raffreddamento. Il raffreddamento è funzione avviene alla superficie perché viene irraggiato il calore nel vuoto. E cioè il calore dall'interno se ne va. Esatto, si trasferisce e ci impiega un certo tempo. Il tempo che ci impiega questo calore ad raggiungere la superficie dal centro della Terra o da dove viene prodotto fa sì che parte del calore venga messo da parte, venga archiviato, immagazzinato e rilasciato dopo. Infatti al giorno d'oggi è stimato che la produzione di energia dovuta al decadimento degli elementi radioattivi sia leggermente più bassa della perdita di energia alla superficie che viene misurata. Quindi questo vorrebbe dire che in questo momento, se il processo fosse istantaneo, la Terra starebbe cominciando lentamente a raffreddarsi o sarebbe proprio lì lì per cominciare. Ma c'è un altro elemento. Però c'è il calore accumulato fin dai tempi della formazione della Terra e accumulato dal decadimento di questi elementi nei secoli precedenti, nei miliardi di anni precedenti, che fornisce un contributo aggiuntivo. E questo contributo può bastare al momento. Aumenta l'incertezza, per cui al momento dovremmo essere ancora in una fase in cui è maggiore il calore all'interno di quello che viene perso. Però siamo un po' al pelo. Ci stiamo avvicinando. È anche vero che ci mette talmente tanto questo calore ad arrivare alla superficie ed essere perso, e ce n'è così tanto all'interno della Terra, viene stimato che la temperatura della Terra, se in questo momento fossimo nella fase in cui comincia il raffreddamento, scenderebbe di circa 100-200 gradi ogni miliardo di anni, perché comunque gli elementi radioattivi continuano a produrre energia, rallentano il raffreddamento, c'è questo ritardo nella propagazione. Per cui l'effetto complessivo sarebbe molto piccolo. Se consideriamo che l'interno della la temperatura al centro della Terra sono 6.000 gradi, per raffreddarlo completamente dovremmo aspettare qualcosa come 30 miliardi d'anni. Farebbe tempo a finire il sistema solare, visto che il Sole ha una vita prevista ancora di circa 5 miliardi d'anni. Va bene, quindi ci riscalderà molto prima lui. Sì. Grazie, buon lavoro. Arrivederci, buonasera. Presto. Buonasera. Traffico, cosa succede nel traffico? Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E siamo arrivati al tema centrale di questa trasmissione. Il tema è: aboliamo il doping. Voi direte, beh, certo, una buona cosa, non c'è più il doping. No, lo aboliamo nel senso che non ne parliamo più. Liberalizziamo le droghe nello sport, in tutti questi sport che, dai quali insomma ci sono arrivate soprattutto negli ultimi tempi notizie quanto mai eclatanti per quanto riguarda il doping. Bene, lo liberalizziamo e togliamo di mezzo questo grande equivoco. Non è questa la mia opinione, però partiamo da questa dichiarazione di forza che ci arriva in particolare da due articoli usciti sul Corriere della Sera, sull'inserto di Cultura, la lettura del Corriere della Sera, e quelli che li hanno scritti sono qui con me. Quindi incomincio a presentarvi due dei nostri ospiti. Danilo Taino, buonasera Taino. Buonasera. Inviato del Corriere della Sera sul fronte esteri, però insomma ti sei pronunciato con forza su questo tema che ho provato. Perché può essere affrontato assolutamente dal punto di vista culturale, quindi non solo dal punto di vista tecnico. E Mauro Kovacic, che abbiamo in collegamento telefonico. Ciao Mauro. Buonasera. Tu sei scrittore e anche tu però scrivi articoli sulla lettura, in particolare quindi sul Corriere della Sera. Avete scritto due articoli, adesso ci arriviamo, che sostengono questa tesi forte. Con una tesi che credo sia invece opposta, ma non lo so, vediamo. Abbiamo qui di fronte Giorgio Rondelli. Ciao Giorgio. Buonasera. Ti do del tu perché scrivi di sport e sulla Gazzetta dello Sport e anche sul Corriere della Sera. E anche sul Corriere della Sera. Però tu sei un allenatore di atleti nel campo dell'atletica e porti anche gente alle Olimpiadi. Ho in linea infine Pietro Enrico Di Prampero. Buonasera. Lei è fisiologo, insegna fisiologia all'università, però qui soprattutto noi l'abbiamo chiamata in quanto lei fa parte, è consulente scientifico dell'Agenzia Nazionale Francese per la battaglia contro il doping. Va bene, allora proviamo a iniziare con i provocatori. Inizio da Danilo e poi vado a Mauro. C'è un tema fondamentale al quale potremmo dedicare proprio alcuni minuti iniziali. La vostra tesi è che questo equivoco vada sgomberato per il semplice fatto che è una battaglia persa. Partiamo da qui. Il punto di partenza è proprio la battaglia, direi. La battaglia che è fatta in modo piuttosto forte dalle autorità sportive internazionali, nazionali e internazionali, ormai direi dagli anni 50, almeno dalla fine degli anni 50, ed è una battaglia che continua ad andare avanti. Da una parte ci sono i progressi scientifici e medici attraverso i quali una serie di atleti cerca di superare i test che cercano di scoprire il doping, e dall'altra parte ci sono avanzamenti scientifici e tecnologici da parte delle autorità che cercano invece di cogliere sul fatto, diciamo così, gli atleti che si dopano. Questa cosa va avanti ed è palesemente una gara che andrà avanti all'infinito. Io credo che il doping sia entrato nello sport, e poi bisognerebbe discutere naturalmente anche cosa si intende quando si parla di doping, ma comunque credo che sia entrato nel mondo dello sport, credo che non ci uscirà, e credo che tutti saremo d'accordo probabilmente per uno sport, a favore di uno sport nel quale non ci sia nessun mezzo chimico per migliorare le prestazioni. Io non credo che ci riusciremo. Secondo me è meglio cercare il second best, la seconda migliore soluzione, perché la prima non l'avremo. E quindi arriviamo dopo a questo aspetto. Io vorrei adesso andare a un fisiologo, a uno che studia gli atleti e lo sport, Di Prampero. Lei è d'accordo sul fatto che la battaglia sia persa? Devo dire che l'opinione pubblica, io penso che sia d'accordo su questo fatto, non tanto per poi arrivare alla tesi aboliamo il doping come problema e liberalizziamo tutto, però la sensazione che si ha rispetto a questa vicenda del doping è che veramente il lunedì scoprite una sostanza che non può essere usata e che è un doping, il martedì ce n'è un'altra. Questo è veramente percepito, credo, dal largo pubblico. È persa o no? Beh, io spero che non sia persa, nel senso, sono d'accordissimo sul fatto che c'è questo continua fuga in avanti di tutto, sia appunto della produzione di farmaci sempre più efficaci e sempre più difficili da scoprire, sia i tentativi per effettivamente scoprirli. Ma però non penso che noi dobbiamo abbassare le armi, perché tante battaglie rischiano di essere perse, anche quella della limitazione di velocità sulle strade, quando poi abbiamo gli imbriaglioni che ammazzano le ragazze che vanno in bicicletta. Dobbiamo assolutamente stare attenti a mantenere alta la guardia, quindi non penso affatto che si debba rinunciare alla battaglia. Però questo vuol dire che la prassi, le procedure, quello che si fa attualmente non funziona, bisogna fare qualcosa di molto diverso da quello che si fa, e quindi no, non è che non funziona, siamo sempre naturalmente ovviamente un pochino in ritardo, come le corazzate, le navi corazzate dei primi decenni del secolo scorso, che aumentavano i cannoni più in fretta di quanto aumentasse lo spessore delle corazze di acciaio, delle corazzate. Bisogna cercare di ovviamente difendersi come si può. Non è banale, mi pare di capire. Chi ha l'attacco ha sempre il vantaggio. Certo. E questo è inevitabile anche proprio nello sport. Giorgio Rondelli, ti devo dire una roba. A questa trasmissione doveva partecipare un allenatore come te, ma di squadre dilettanti di ciclismo. Di squadre di questi dilettanti, insomma, che ci danno abbastanza dentro. Perché ci interessava vedere che cosa succede quando il doping esce dai professionisti, e purtroppo sappiamo che c'è molto. Va bene, ha parlato con i dirigenti della squadra, ci sono anche degli sponsor, questi gli hanno detto di no, che non doveva partecipare per il semplice fatto che temono che venendo in onda a dire beh, noi siamo severissimi, poi arrivasse una mail, una spifferata dicendo sì, figuriamoci, tre di quelli lì li conosco perfettamente e si dopano. Battaglia persa? Battaglia persa, perché da sempre il doping corre davanti all'antidoping. Guardiamo anche lo famoso scandalo Balco del laboratorio dell'italo-americano Victor Conti a San Francisco. La formula di questo anabolizzante sintetico, il THG, fu scoperta solo perché Trevor Graham, che era l'allenatore di Tim Montgomery e di Marion Jones, non avendo ricevuto un premio per il record del mondo, ha rivelato la formula, se no sarebbero andati avanti all'infinito. E il doping corre sempre davanti all'antidoping. C'è da dire anche, perché vivendo nell'ambiente dello sport, che anche l'antidoping è assolutamente necessario e spesso un'arma usata per colpire qualcuno a discapito di qualcun altro. Quindi non è usato, tu dici, come andrebbe? No, è usato così, però prendiamo il caso dei due atleti ad Atene, Latano e Kenteris. Questi non avevano mai gareggiato fuori dalla Grecia negli anni precedenti, quindi evitando tutti i controlli. Allora io che vivo l'ambiente dello sport e non ho la testa dentro la sabbia, quando mai vengono controllati scientificamente i due atleti più rappresentativi del paese che organizza i giochi? Da io sono dentro da 40 anni nell'ambiente dell'atletica ad alto livello, non è mai successo. È solo stata una battaglia fra due atleti assolutamente colpevoli, di un'agenzia, la WADA contro l'USADA. Prima sono venuti fuori colpevoli gli americani, che per anni l'hanno fatta franca, allora loro hanno marcato quelli che l'altra agenzia non marcava stretto, è venuto fuori lo scandalo. E poi aggiungo, come così butto il sasso nello stagno, non si può pensare di liberalizzare il doping, per poi la differenza la farà sempre il budget dei vari atleti e delle varie squadre. E infatti questa è la seconda parte come temi sulla quale vogliamo andare. Voi però, come allenatori, quindi con gente, stiamo parlando di gente che è vicinissima agli atleti, la riuscite a controllare questa cosa oppure no? Vi sfugge? No, non, se c'è doping assolutamente non ci sfugge. A me fa ridere quando qualche atleta dice diciamo è la povera vittima. No, gli atleti professionisti sanno quello che fanno, sono loro in prima linea, alle spalle hanno quasi sempre degli staff medici e di alto livello e a volte, anche dispiace dirlo, anche delle stesse federazioni. Stiamo per sentire Mauro Kovacic, però una breve pausa e poi ritorniamo immediatamente. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Riprendiamo il nostro dibattito sull'abolizione dei controlli per il doping e quindi la liberalizzazione delle sostanze che gli atleti possono usare. Mauro Kovacic, nel tuo pezzo, nel tuo articolo uscito sulla Lettura del Corriere, tu dici: uno dei motivi per cui questo equivoco va tolto di mezzo è che ormai lo sport, l'immagine che abbiamo dello sport è finita. Abbiamo a che fare con una professione come tutte le altre. Sì, ma non mi sembra una cosa così negativa come può sembrare dalle tue parole. Si tratta semplicemente, secondo me, di togliere un velo di ipocrisia al sistema, soprattutto, più che allo sport. Nel senso che, insomma, il corpo della nostra epoca, il corpo nella contemporaneità, diciamo, è sottoposto, noi siamo disposti ad accettare mille modificazioni di questo corpo, però chissà perché quello del sportivo pretendiamo che resti, come dire, una specie di corpo puro, corpo genuino, insomma, ecco, di scrigno della nostra verginità perduta, il luogo della purezza. E questo è un po' incomprensibile, nel senso che anche lo sport contemporaneo, anche lo sport, come tutto la nostra epoca, è cambiato. Cioè, lo sport è strettamente dipendente, ad esempio, dal sistema mediatico, dal fatto che sopravvive soltanto se è trasmesso in TV, ad esempio. Io sto parlando dello sport professionale, quello che guardiamo, diciamo, noi spettatori. E quello che è trasmesso in TV è a sua volta legato a tutta una serie di necessità, tra virgolette, sistemiche proprio, cioè per restare in TV deve avere un alto indice d'ascolto. Per avere un alto indice d'ascolto gli sportivi sono costretti sempre ad alte prestazioni, a questa logica dell'alta prestazione, perché solo così quegli spazi pubblicitari, gli sponsor li riempiono volentieri e solo così diciamo, il sistema dello sport viene mantenuto. Pensando a questa logica, diciamo, a questa catena, o si rompe questa catena e si fa un atto di una strana conversione, però direi tutto sommato assurda, diciamo, nella contemporaneità, dicendo vabbè, no, noi siamo disposti a rivedere i 100 metri in 11 secondi, a vedere che fanno il Tour de France a 30 km all'ora, a vedere che fanno la maratona in 2 ore e 30, siamo disposti a vedere questo e lo guardiamo per strada perché ci piace, oppure accettiamo che lo sport è diventato spettacolare e solo perché è spettacolare continua ad essere seguito. Certo. Allora, in questo senso non si può continuare a scagliare, diciamo, la colpa all'atleta, in questo modo direi veramente paradossale, per cui si guarda ogni volta la gara con il sospetto che quelli che stanno vincendo siano dopati. Poi immancabilmente lo si trova, trova il doping, e a quel punto tutti quanti ci scandalizziamo. Però vorremmo sempre 3 settimane di Tour de France a 50 km all'ora anche sulle strade di Pirenei. Questa è la farsa a cui voi fate riferimento nei vostri articoli. Ecco, però Danilo, c'è anche un tema per i 100 professionisti che ci sono in ogni situazione, nel ciclismo, nell'atletica. Poi noi abbiamo migliaia e migliaia di dilettanti che però magari fanno ogni settimana anche la loro corsa ciclistica. Il problema è che il doping c'è pure lì. È un problema molto serio, direi che è proprio questa una delle questioni più pragmatiche, credo, da affrontare in modo pragmatico. Scusate. Non è vero che quello che diceva prima il dottor Di Prampero sia vero, non è proporre la liberalizzazione del doping come togliere il limite di velocità. Il problema è che il doping e questa situazione di divieto del doping è altamente distorsiva. È distorsiva su due elementi, uno sulla salute e uno sul, diciamo così, sul mettere tutti gli atleti nelle stesse condizioni di partenza. È il divieto che crea problemi di salute, nel senso che ovviamente sia la ricerca clandestina, diciamo così, sia l'attuazione concreta, l'esecuzione concreta del doping sull'atleta fatto nel bagno dell'albergo è sicuramente più problematica di una situazione trasparente. Controllata, tu dici. A maggior ragione sui dilettanti, naturalmente. Certo. La seconda cosa è che certo che gli atleti africani o i dilettanti non possono oggi avere accesso al doping, perché il doping costa molto di più, perché è sostanzialmente un mercato nero. Se ci fosse un mercato trasparente i prezzi scenderebbero e tutti probabilmente potrebbero avere accesso ai farmaci. Poi ci dovrebbero essere dei controlli sui farmaci, perché ci sono quelli veramente pericolosi, però è il divieto che crea le differenze. Cosa ne pensa Di Prampero? Non sono d'accordo neanche su una parola. Il doping è gravemente lesivo della salute dell'atleta, se poi naturalmente è fatto addirittura, come diceva Kovacic poco fa, in modo inappropriato, naturalmente è ancora più grave. È gravissimo quindi sul fatto della salute dell'atleta, abbiamo esempi infiniti, non perdiamo tempo a chiacchierare che stiamo già perdendo troppo tempo ripetendo le stesse cose. E poi è gravemente lesivo dell'eticità del discorso, non parlo dell'etica sportiva, ma quanto del fatto che lo sport, se ha senso, deve insegnare a vincere senza arroganza e a perdere senza umiliazione. Sappiamo bene che purtroppo tutto il discorso mediatico, tutto il discorso del denaro che c'è dentro nel professionismo ha ovviamente fortemente anacquato questa immagine, però dobbiamo cercare, abbiamo il dovere morale di ritornare a prendere in mano questa situazione. Il discorso che state facendo, che si sta facendo, è come dire, visto che i politici continueranno a rubare, rendiamo legittimo il furto. Abbiamo avuto già la legge anticorruzione in Parlamento, ma perché? Lasciamoli che rubino, benissimo, bravi. Quindi non sono d'accordo neanche su una parola di quanto è stato detto da Kovacic. Rondelli, tu che stai vicino a questi ragazzi. Ma io dico che c'è una posizione intermedia, perché poi non è vero che non dopandosi nessuno, tutti hanno le stesse armi a disposizione. Prendiamo l'arrivo dei 10.000 alle Olimpiadi di Londra. Ha vinto Mo Farah e secondo Galen Rapp, due americani che si allenano con Nike Oregon Project in Oregon, con questo allenatore che è diventato improvvisamente bravissimo. Però chi ha a disposizione come lui il budget della Nike, la camera Alter G con l'assenza di gravità, la camera iperbarica e tutte queste cose, non c'è proporzione. È come, è più o meno vale lo stesso discorso per Armstrong, che ha vinto 7 Tour de France, e tutti i grandi campioni dicono così, non ne parlano male, perché comunque a mio avviso, senza voler esaltare quello che ha fatto Armstrong, uno che per 7 anni di fila vince il Tour de France è comunque uno che è di un'altra categoria, a mio avviso, perché tutti quelli dietro, chi è che ha vinto? Quelli dietro che sono ugualmente così, quindi secondo me la differenza del budget può fare sempre la differenza. E poi volevo solo fare un inciso a quello che ha detto prima Danilo, che gli atleti africani, da quando è entrato il sistema dei manager europei e quant'altro, sono assistiti e anzi hanno goduto, a mio avviso, spesso dell'impunità. Guarda caso, negli ultimi 2 anni i risultati nelle gare di mezzo fondo sono diminuiti, sono aumentato nella maratona, ma sui 5-10 mila, da quando anche loro hanno cominciato a prenderli, perché prima, con la storia che sono geneticamente più forti e se ne hanno 3 volte al giorno, godevano un po' dell'impunità. Adesso sono andati a mettere un po' il sale sulla coda e ne hanno già trovati diversi. Voglio chiedere brevissimamente, perché siamo in conclusione, un'opinione, ma se legalizziamo non spostiamo semplicemente più avanti tutto? Cioè, lo prendono tutti, tutti hanno una identica risposta maggiorata, dovrà esserci il doping del doping? Danilo? Ma io credo che possa essere una cosa del genere, sicuramente ci saranno nuove scoperte scientifiche, io spero che siano anche più sane per gli atleti, e sono convinto che con un mercato aperto saranno sicuramente più sane. Kovacic? Ma io credo che il doping non venga a influire sulla bellezza dello sport, innanzitutto, perché anzi sarebbe una specie di restituzione della trasparenza e paradossalmente restituirebbe le differenze naturali degli atleti, perché se tutti potessero prendersi, diciamo, sotto controllo medico, ovviamente, perché a questo livello diciamo lo sport è sempre, come giustamente ricordavano gli altri ospiti, è estremamente sofisticato anche dal punto di vista del controllo medico. Fatica, bellezza, abnegazione della gara resterebbero assolutamente invariate. Invariate. Tra l'altro aggiungo una piccola cosa riguardo all'ipocrisia, che mi sembra il nocciolo fondamentale di questo discorso. Il doping è doping anche fisico, ad esempio, perché il trattamento intensivo che viene fatto sul corpo degli atleti in termini di overtraining negli ultimi anni, il modo in cui appunto vengono spremuti i corpi degli atleti, sì, e va già al di là di una filosofia dello sport così come era intesa prima, in termini autentici e etici. Fermati un attimo, Mauro, perché vedo Rondelli. Io sono assolutamente d'accordo, che se ne dica, ne hanno spaccati molti più i metodi di allenamento, tendini, ossa, muscoli, articolazioni, chi voleva portare all'eccesso di determinati allenamenti, quindi se si fa una proporzione vince nettamente carichi di lavoro esagerati e allenatori poco accorti. Questo vi dice bene, direi, concludendo su questa cosa, quanto sia intricata la vicenda, cioè è tutt'altro che banale. Io personalmente sento questa difficoltà e sento che quindi il dibattito è decisamente da approfondire. L'unica cosa che mi sembra molto preoccupante è tutto quello che non è professionismo, cioè il fatto che arrivi doping a gente che magari ha 15 anni, lì mi preoccupa molto una liberalizzazione. Bene, ringrazio tutti i nostri ospiti e magari faremo un'altra puntata, perché mi pare che potremmo fare 4 ore su questa cosa, non tanto per fare bla bla, ma perché c'è veramente una profondità da capire. Grazie a tutti. Grazie. Parliamo di innovazione, adesso lo stiamo facendo da un po' di puntate, siamo stati a Robotica, appuntamento a Milano la scorsa settimana, e Alberto Agliotti vi parla di un robot che dovrà fare l'atleta. Legna Antimi e Giorgio Rinaldesi sono 2 studenti dell'Università Politecnica delle Marche che insieme ad altri colleghi hanno messo insieme un'associazione per partecipare a una competizione un po' particolare. Team Leonardo è un'associazione che ha l'obiettivo di partecipare a FRC, First Robotics Competition, una competizione che si tiene in America, a cui partecipano gruppi di studenti provenienti da tutto il mondo. Allora, in questa competizione i robot creati dai gruppi degli studenti devono competere in un gioco di squadra che ogni anno cambia. Il tema di un anno può essere il calcio, l'anno dopo il basket, quindi giocare a uno sport. Il robot migliore ovviamente vince su tutti gli altri. Mancava l'Italia finora? Sì, l'Italia non c'è, Noi siamo il primo team, vogliamo portare anche l'Italia e con noi anche il nome di aziende che ci vorranno supportare. Allora, vediamo un po' come si svolge anche la competizione. Ogni anno viene scelto uno sport, ma viene dichiarato poco prima della competizione stessa, quindi voi dovete arrivare preparati. Sì, praticamente il bando esce a gennaio e dall'uscita del bando passano 6 settimane. In queste 6 settimane ogni team, praticamente attraverso gli organi competenti, chi della parte meccanica, chi della parte elettronica, informatica e quant'altro, devono costruire un robot che sia capace di svolgere quelle determinate funzioni. 6 settimane di lavoro, dopodiché ci sono le eliminatorie, successivamente chi è stato il più bravo andrà alle nazionali in St. Louis, in Missouri. Ci saranno gli occhi appunto di tutto il mondo, visto che partecipano 250.000 persone e la competizione è seguita dai principali emittenti televisivi americani come NASA Channel, ESPN, Fox, canali YouTube dedicati e dirette streaming. 6 settimane per preparare il robot sono, insomma, un tempo veramente limitato. Quali sono le sfide che dovete affrontare anche immaginando quale tipo di sport può venire fuori e quindi dovete essere pronti a tutto? La nostra intenzione è quella di partecipare nel 2014. Adesso, con l'uscita del bando per l'anno del 2013, comunque costruiremo un robot giusto per formazione, per gli studenti dell'IT Montani di Fermo, degli studenti di Castelfidardo con cui collaboriamo, e soprattutto serve per allenarsi e per capire i prossimi problemi che possono insorgere per quando andremo a fare la competizione. C'è uno sport che vorreste che uscisse? Personalmente mi piace molto il basket, però purtroppo è stata già fatta. Comunque la competizione è bella anche per l'effetto sorpresa. In bocca al lupo quindi, ma avete bisogno di un sostegno? Sì, certamente tutto questo non sarebbe possibile senza un sostegno, quindi un supporto dalle aziende che si vogliono affiancare a quelle grandi aziende che già supportano questa competizione. Potete trovarci sul sito www.teamleonardo.tk per ulteriori informazioni e per eventualmente proporvi come supporto per noi. Grazie, allora ci sentiamo nel 2014. Ok, grazie. E adesso velocemente torniamo sulle strade e vediamo che cosa succede nel traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Continuiamo con le innovazioni, sempre da robotica, e adesso arriva l'esoscheletro. Qui accanto a me c'è Paolo Cristofani, che è affetto da una lesione midollare, paraplegico, ed è in cura ad un istituto che è il primo in Italia e in Europa. Si chiama Istituto Prosperius di Umbertide, in provincia di Perugia, ed è il primo in Italia che utilizza un esoscheletro robotico di ExoBionics, che è una società americana. Ora entreremo nel dettaglio di questo strumento, che le restituisce la camminata. Questo è importante dal punto di vista psicologico, ma credo anche fisico. Anche fisico, sì, soprattutto fisico, ma anche psicologico. Rialzarsi dopo molto tempo da una carrozzina è una cosa, diciamo, speciale. Paolo, se ci descrive che cos'è questo esoscheletro, poi qui con noi c'è anche il fisioterapista, però se ci racconta come l'aiuta nella camminata. Sì, io mi posso alzare quasi in autonomia. Per il momento, con questo modello che stiamo usando, ho bisogno comunque dell'aiuto di un fisioterapista, però poi lo uso praticamente da solo, riesco ad alzarmi e fare dei passi. C'è il limite, diciamo, delle stampelle, comunque sì, la posizione è retta e in teoria potrei stare in piedi anche per 3 ore, che è l'autonomia dell'esoscheletro, delle batterie dell'esoscheletro. Qui con noi anche Giacomo Baldoni, che è il suo fisioterapista, lo ripetiamo, dell'Istituto Prosperius di Umbertide in provincia di Perugia, che è l'unico in Europa a utilizzare questo tipo di esoscheletro. Baldoni, entriamo un po' nel dettaglio di questo esoscheletro robotico. Sì, allora, questa struttura, per i pazienti, per essere inclusi all'utilizzo di questa struttura, vengono sottoposti prima ad un'attenta valutazione dal punto di vista articolare, muscolare e anche dal punto di vista della spasticità. Se il paziente risulta idoneo, viene inserito nel training. Il training dura all'incirca 2 mesi. In questi 2 mesi il paziente passa da un livello iniziale in cui viene assistito dal terapista con una corda che lo sostiene durante il cammino, fino ad arrivare ad utilizzare l'esoscheletro in completa autonomia, metterselo da solo, camminare e toglierselo da solo, perché l'obiettivo finale di questa macchina è proprio quella di inserirla nella vita di tutti i giorni del paziente. Gli ascoltatori non lo possono vedere, adesso le chiedo brevemente di descrivercelo. In realtà ci immaginiamo un esoscheletro, non è un Robocop, ma è molto semplice. Guardi, possiamo definirlo più come un abito. È composto dietro da uno zainetto dove risiedono le batterie ed il computer e l'interfaccia tramite la quale possono essere regolati la lunghezza del passo, la velocità, eccetera. A livello degli arti inferiori ci sono delle strutture che li sorreggono, composte da un materiale in fibra di carbonio, materiale molto leggero, e motori a livello delle anche e delle ginocchia che servono appunto per permettere la camminata. Inoltre la struttura ha un peso di 23 kg, ma il paziente non la sente perché il peso è completamente scaricato a terra grazie alle strutture di supporto degli arti inferiori. E le batterie hanno un'autonomia fino a 3 ore. Vengono fornite in genere 2 paia di batterie al litio facilmente ricaricabili con 1 ora e mezzo. I vantaggi di questo esoscheletro, ci diceva anche Paolo, sono chiarissimi, ma anche dal punto di vista medico è molto importante. Sì, sicuramente è risaputo il beneficio che c'è per i pazienti che stanno in carrozzina, la stazione retta del cammino che porta benefici sia osteoarticolari ma anche muscolari a livello circolatorio, eccetera, e quindi tanto più un paziente riuscirà ad utilizzarlo all'interno della giornata, tanto più saranno i benefici verso questi tipi di strutture. Ecco, adesso abbiamo parlato dal punto di vista, come dire, di cura medico. Esistono dei modelli di questo tipo autogestiti e quindi utilizzabili anche nella struttura domestica? Sì, diciamo l'obiettivo è proprio quello. Ci sono molti modelli in via di sviluppo direttamente dalla ExoBionics, che è la ditta che lo produce. Questi modelli sono appunto puntano proprio al miglior utilizzo in perfetta autonomia da parte del paziente e gestirlo in una situazione domiciliare. 3 vitelli avvelenati. Si salveranno? Chi cosa li ha avvelenati? Questa è la nuova avventura animalesca che vi racconta Chiara Albicocco. La clinica degli animali. La storia di questa settimana la potremmo intitolare "Quando la passione per gli acquari salva i vitelli". Allora, la storia di questa settimana riguarda 3 vitelli del signor Armando, così lo chiameremo, e io sono qui al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Milano insieme al professor Daniele Vigo, veterinario, che ci racconta questa storia che è capitata qualche anno fa. Sì, veramente qualche anno fa. L'amico Armando aveva diverse passioni. Sicuramente quella che gli mancava era la passione per lo studio, ma grande agricoltore, grande allevatore, a casa sua si poteva vedere di tutto, da quello che erano bovini, suini, pollame, equini, canarini, pesci, pesci d'acquario, e soprattutto aveva dei bellissimi cani, dei bellissimi segugi. Quindi un agricoltore, allevatore con grande passione per gli animali, via. Con grande passione per gli animali. Io avevo una segugia da presentare a un suo stallone e ci mettiamo d'accordo per l'appuntamento. Sì, vieni sabato verso sera, intanto siamo lì, abbiamo macellato il maiale e poi vediamo cosa combinano i cani. Detto fatto, sabato verso le 6 del pomeriggio mi avvio verso casa di Armando. Arrivo, si avvicina Armando e mi dice: vieni che ti faccio conoscere i norcini, vieni a vedere quello che abbiamo fatto. I norcini sono coloro che fanno, macellano e fanno il salame. Fanno il salame. Bellissimo granaio con tutti appesi alle travi i salami. Arriva la nipote trafelata, spaventatissima, tremante quasi, che dice che ci sono 3 vitelli che stanno morendo, o sono morti, o saranno morti. Fa: dove sono? Sono là in fondo al cortile, in pessime condizioni, sono per terra, si sbattono. Allora, di corsa andiamo tutti a vedere cos'era successo, e infatti troviamo i vitelli a dir poco agonizzanti. Quindi che cosa avevano, che cosa presentavano questi vitelli? Presentavano, masticavano, avevano una scialorrea, quindi una bava schiumosa, avevano tremori, uno muggiva stranamente, una cosa molto critica che faceva percepire una certa gravità e un rischio della vita per i soggetti. E quello che salta all'occhio è che sia la lingua sia le mucose sono bluastre, sono scure, lingua proprio di un colore strano, e dico, ma qui vuol dire che i vitelli non stanno ossigenando, ma i vitelli respiravano tutto sommato abbastanza bene, quindi è una questione di trasporto dell'ossigeno, cattivo trasporto dell'ossigeno, quindi mette emoglobina. Ecco, quindi dal sintomo bocca blu, lingua blu, lei capisce che c'è mancanza di ossigeno nel sangue. Non mancanza di ossigeno nelle vie respiratorie, perché non avevano difficoltà. Non avevano difficoltà respiratorie. Chiesto se avessero avuto tosse, no, stavano bene. Infatti tutti hanno confermato che i vitelli fino a poco tempo prima li avevano visti in giro a fare i turisti come al solito. Mette emoglobina, cosa vuol dire? Vuol dire una emoglobina che non è in grado, non è più in grado di trasportare l'ossigeno perché i suoi legami sono occupati da altre sostanze. La causa poteva essere qualcosa che avevano ingerito. Certo, la cosa più comune che possono aver ingerito in un cortile di una casa colonica, di una fattoria, chiaramente si pensa ad un concime azotato, ma di concimi azotati non ce n'erano, non ce n'erano assolutamente. Però adesso bisognava correre ai ripari. Cosa fare? Ho bisogno di una sostanza riducente. Ragionavo ad alta voce, riducente. Che cosa c'è da ridurre? Cioè, devo ridurre l'emoglobina. Cosa vuol dire? Doveva fare in modo che l'emoglobina tornasse normale. Ok, quindi la causa poteva essere un avvelenamento da nitrato e così via, ma ora dovevamo salvarla. Come? La necessità era immediatamente di una sostanza riducente, perché i tempi di azione stringevano, non è che si può star lì a lungo. Ecco che vammi a prendere il disinfettante per l'acquario. Ah no, aspetti, il disinfettante per l'acquario, ho capito bene? Sì, ha capito bene. Uno dei più comuni disinfettanti che vengono utilizzati per gli acquari o per i pesci è il blu di metilene, quindi una sostanza riducente, estremamente economica, semplice da gestire, basta fare una soluzione, serve per ridurre le concentrazioni di metemoglobina nel sangue. E quindi diciamo riportare la regolare funzionalità dell'emoglobina, quindi la distribuzione dell'ossigeno. Nel frattempo bisogna fare i calcoli della dose efficace, dei rischi tossicologici, comunque lì di corsa pensa i peso vivo, i milligrammi, i 4 milligrammi per chilo, fai tutti i calcoli, alla fine riusciamo a tra schizzi vari preparare una soluzione che potesse essere iniettabile. Fatto questo, comincia l'iniezione, lenta sui soggetti perché non si può, e intanto, primo aspetto, i soggetti anche all'iniezione lenta non muoiono e quindi di problemi non ce ne sono. Passa il secondo sempre iniezione lenta, arrivo a metà della terza iniezione sull'altro soggetto e vedo che comunque questo comincia a tirar sulla testa. Quindi comincia a reagire, capiamo che forse non abbiamo fatto un errore. No, ci abbiamo messo una pezza, come si dice, eh? Qualcosa abbiamo combinato, qualcosa di buono, le cose funzionano, sono abbastanza, infatti mi dicono, me li hai avvelenati, se te li ho avvelenati pace, muoiono, morivano prima, muoiono ancora, ma il rischio bisognava correrlo. Qui il pugno fermo, la bravura di un veterinario che sa tenere insomma il sangue freddo. La prontezza deriva dal fatto che non è comune vedere e poter assistere a questa tipologia di allevamento e al decorso, di solito si arriva sempre dopo. Dunque, ricostituita la funzionalità dei vitelli, piano piano si tirano in piedi. Sì, nel giro di pochi minuti, 8-10 minuti, i vitelli cominciano a riprendere le loro funzioni generali. Però il problema era pensare dove potessero aver assunto il veleno. Quindi trovare la causa per far sì, insomma, di tutelare anche le altre bestie. Anche le altre bestie. Insomma, quando si comincia ad avere un centinaio di animali in giro per un'azienda, occorre un certo criterio. E cercare la fonte del veleno, altro che cercare il veleno nel pagliaio. Paglia ce n'era dappertutto, gira di qui, gira di là, non si riesce bene a capire dove fosse. Ma siamo ancora alle prese con il problema di individuare la fonte del nitrato, da dove può essere saltato fuori. Chi va di qui, chi va di là, va a vedere. Ad un certo punto sentiamo delle male parole rivolte al garzone dei Norcini, che aveva messo nella macchina, aveva rovesciato tutte quelle che erano le spezie, le droghe che vengono usate per la preparazione dei salumi. Quindi corriamo su quel baule della macchina un profumo, un aroma, una cosa stratosferica, però insieme al pepe, insieme alle altre spezie che normalmente sono presenti, che vengono utilizzati, c'era il sacchetto dei nitriti, dal salnitro. Che vengono utilizzate nella salumeria come conservante. Nitriti che in presenza in ambiente salivare si trasformano immediatamente in nitrati. Quindi i vitelli erano giunti lì, avevano fiutato, avevano toccato, avevano rovesciato e tutti avevano leccato un po' di nitrito, a livello salivare si è trasformato in nitrato e la mucosa buccale ha un ottimo assorbimento per queste sostanze, come le confermano diversi trattamenti farmacologici di tipo cardiologico con queste sostanze. Anche le pastiglie umane che noi utilizziamo per, ad esempio, le cardiopatie vengono sciolte appunto sotto la lingua. Ecco, il meccanismo di assorbimento non è stato un meccanismo lungo, è stato un assorbimento molto violento e ha portato immediatamente la situazione a degenerare. Il fatto di aver potuto immediatamente osservare il colore delle mucose e porre immediatamente il sospetto, ma grazie a Dio uno si ricordava che quello aveva i pesci d'acquario e i pesci di allevamento, per cui il dubbio che potesse avere in casa del blu di metilene è stato, il meccanismo che ha fatto scattare il salvataggio dei vitelli. Grazie professore per questa lezione di veterinaria e appunto spiegato l'arcano perché i pesci, gli acquari, hanno salvato la vita ai vitelli di Armando. Quindi, se volete allevare i vitelli a casa, meglio avere un acquario, ricordatevelo, mi raccomando. Così si conclude Möbius questa settimana, ci sentiamo fra 7 giorni.